Ci sono persone pagate per dare notizie, altre per tenerle nascoste, altre per falsarle. Io non sono pagato per far niente di tutto questo. Rino Gaetano. Adepti e adepte, possiamo incominciare l'altra Radio Roma. Sono social. Podcastesimo. Polacco. Radio Roma. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastesimo. Podcastesimo. Signore santissimo podcast della regione del podcastismo. Ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Siti social. Podcastista. Un'altra Radio Roma. Siti social. Un'altra Radio Roma. Podcastismo. Nuova religione. Podcastismo. La religione è un momento. Siti social. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piazza. No, no, sei cretini. www.altraradioroma.org. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. affettuoso e un caloroso abbraccio dal vostro amico Gasperino, pronto qui con un nuovissimo podcast, pronto per raccontarvi un sacco di cose in musica. E abbiamo iniziato con un gruppo che conoscerete sicuramente, di fama internazionale, che nel 2007, esattamente il 10 ottobre, ha deciso che dal 3 dicembre avrebbe messo in download il proprio lavoro, la propria opera, l'ultimo lavoro. Loro sono i Radiohead e l'album era In Rainbows. Un mese circa dopo l'uscita dell'album sono incominciate a circolare. La traccia che ci siamo ascoltati è Nude, ma perché abbiamo scelto questo gruppo? Non perché abbiamo cambiato opinioni e non vogliamo presentarvi gruppi emergenti o particolarmente emozionanti per noi, ma è per il semplice motivo che loro hanno anticipato i tempi rispetto a tanti altri gruppi che incontreremo in questa selezione. Il download dell'album fosse potenzialmente gratis e non c'era senza nessuno. Come del resto la band che vi vado a presentare adesso, che risponde al nome dei Widnes Grind, che è una rock band che si ispira al punk post britannico e al rock alternativo. Ha già pubblicato 2 EP e sta lavorando ad un terzo, da dove andiamo a estrapolare la traccia Dark Eras, che vi ascoltate e pregustate attraverso le onde dell'Artra Radio Roma. Il download del nuovo album. Thank you. torniamo per un momento Bandcamp, dove andremo ad attingere più avanti durante questo podcast. La prossima formazione che vi vado a presentare si chiama La Dame Blanche ed è una formazione rock alternativa della capitale di Berlino, quindi è tedesca. Si forma nel 2008, subisce una trasformazione, nel 2010 pubblica il primo album. I quattro musicisti utilizzano due voci, quella maschile e quella femminile, che si contraddistinguono e le potete notare abbastanza bene, due chitarre, basso e batteria, e aggiungono percussioni, sintetizzatori, archi, armonica, insomma, le loro canzoni risultano alquanto belle. Buon ascolto da me. Thank you. Per presentare viene da Vercelli, inizia a suonare insieme intorno al 2000 e come tante rock band metal si presenta ai locali per fare le cover dei gruppi, di gruppi crossover come i Korn, i System of the Down, insomma un bel curriculum. Nel 2004 incidono il primo demo e poi nel frattempo continuano a suonare tra Vercelli e Torino, tutti i locali sono loro. Si presentano come band metal abbastanza interessante, con dei testi importanti. Subisce diverse trasformazioni fino ad arrivare al 2008, quando cominciano a scrivere i primi brani che licenzieranno Creative Commons. Successivamente nel 2009 registrano il loro singolo Senza Spazio e subito dopo Vittorio, uno dei due chitarristi, lascia la band visto che si trasferisce definitivamente a Londra per motivi di lavoro. Ed è così che entra un nuovo componente. Loro sono il Sistema Liquido e ci andiamo ad ascoltare Soluzione Alternativa. Dal sito di Free Music Archive ho scelto per questo lavoro una formazione che si chiama Jackie the Cherics, il brano The Cat. C'era un vecchio monaco zen che la ogni sera teneva il suo discorso ai suoi discepoli in un monastero, e una sera non sapeva cosa dire. Capita spesso anche ai maestri. E allora guarda tutta la sua gente che aspetta che dica qualcosa di importante, e un tratto su una finestra aperta arriva un uccellino e comincia a fare. Il maestro guarda e dice: per oggi la lezione è finita. Solo che per te è normale. prendo come se potessi entrare con la spina in un vortice sensuale, come se, dico come se potessi osare. Forse Marte non si offenderà se ci limitiamo solo ad osservare, solo che, dico solo che bisogna andare. È quello di creare, fare musica, circondarci di amici e musicisti che abbiano voglia di riprendersi la musica vera, senza compromessi. Per questo cercheremo sempre il lato umano e sereno del concetto di gruppo, concentrando le nostre energie per ricercare contenuti che abbiano valore artistico ed onestà intellettuale, direttamente dal sito dei Metrognomi. Per l'asse verticale nel spazio ti porterò. Che non ti si addice. La prossima formazione che vado a presentarvi è una formazione ucraina. Anche in Ucraina hanno capito che la musica si può presentare Creative Commons. Suonano insieme dal febbraio del 92, dove producono un primo live che vanno a mettere su disco. I componenti dei Nameless sono Svitlana alla voce, Natalie alla viola e al flauto, Zorian alla chitarra, Andri alla batteria, Jaroslav al basso. E ci presentano una sorta di musica tipo i Velvet Underground, del Breyer Janashon, dei Morning After Gears, i Pallidi Occhi Blu, Karma Black, Vis, Stamflus e Deistano. Ma sicuramente quello che emerge è la loro musica. Hello, I'm Always Cool Kitchen. Today on Radio Resistance, which is broadcast from deserted fields near Ternopil, Ukraine, this is the band Nameless and the song Bonnie and Clyde. sapere come utilizzare alternativamente le licenze Creative Commons, vi utilizzo l'esempio di un gruppo, di una formazione che ha deciso di pubblicare la propria opera Creative Commons su Bandcamp. La formazione si chiama I Divno, ossia I Divino. Si formano nel 2008 da un'idea di Daniele Rossi, chitarrista, e Sergio Paperini, tastierista, con l'intento di unire musica rock e elettronica. Iniziano così come un duo, con l'aggiunta di batterie programmate tramite software, ma si accorgono ben presto della freddezza del drum machine, quindi entrano a far parte del gruppo dopo pochi mesi Luca Cherubini Celli, attuale batterista, e Gambrinelli Daniele, il bassista. Così facendo iniziano ad avere una base ritmica potente sopra la quale girano riff di chitarra e suoni elettronici. Nello stesso anno suonano per locali vari, feste, eccetera eccetera, fino ad arrivare nel 2010, dove hanno la necessità di introdurre una voce, cercano una voce femminile finché non trovano quella di Nunzia, che è l'attuale cantante. Loro sono I Divino, sono in attesa di un'etichetta che produca il proprio album. Intanto godetevi qui su un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Che vi sto per presentare, che ci suona un metal melodico. Nasce nel 2009, alla fine del 2009, e cominciano attraverso la chitarra e il basso a fare le cover di brani dei Metallica o dei Rammstein, che eventualmente influenza anche la loro creazione. A un certo punto si rendono conto che i ritmi prodotti da un computer o da un sintetizzatore, per quanto riguardava la batteria, non poteva rendere merito a quello che doveva essere la formazione. così si cercano un batterista finché non trovano il terzo elemento e cominciano a scrivere musica e a produrre il loro primo EP. In attesa dell'uscita di quest'ultimo ci andiamo ad ascoltare dei Monster Kill, il loro primo demo. Anche se il tempo non è giusto, ci ascoltiamo He's Called Ferragus. Johnson e Dracoina. Don't need the real. As alla batteria Gabriele Gabbo Fontana, al basso Giuseppe Giufi Feola, alla chitarra Luca Piccio Piccinini, alla chitarra Gennaro Shane Albanese, alla voce Marco Skyd Maselli. Loro sono gli Exciters. Like we- termina così questo podcast e vi ringrazio ancora una volta per averci seguito così numerosi. Vi invito ancora una volta a seguirci durante le dirette del lunedì, che vanno dalle 21 alle 23 attraverso Mille Mics, oppure la replica su Fuso Radio dalle 18 alle 19.30. Il solito abbraccio caloroso di Mr. Gasperino a tutti quanti voi e alla prossima! Il jingle d'un'altra, n'altra Radio Roma for you, per il nuovo anno. Il jingle d'un'altra. Io aggiungerei anche for you, per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Una radio a caso. Il jingle d'un'altra a caso. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. La più grossa radio web. Web. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma, la radio che ti manda su un altro pianeta. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Web. Tra Radio Roma. Roma. Web. Io aggiungerei anche un'altra Radio Roma. La più grossa radio ti manda su un altro pianeta a caso per il nuovo anno.